piano. Di Enrico Ruggeri. Il 22 febbraio del 1984 la madre di David Vetter può finalmente toccare per la prima volta la mano e il volto del figlio dodicenne. E però è la prima e l'ultima volta, perché David sta morendo per le conseguenze di un trapianto di midollo tentato per guarirlo da una malattia terribile, l'immunodeficienza combinata grave, cioè la mancanza completa di un sistema immunitario che possa proteggerlo anche da un minimo raffreddore. Per questa ragione David ha vissuto fino alla sua nascita chiuso in una bolla di plastica sterile, isolato dai germi, dalla sua famiglia e dal mondo. Oggi vogliamo raccontare la sua storia, rendergli giustizia, parlare di lui, David Vetter, di una vita trascorsa sotto il controllo costante dei medici, figlio amato ma mai abbracciato davvero dai suoi genitori, un bambino osservato da chiunque ma vissuto da solo fino alla sua morte. David Philip Vetter è figlio di David Joseph Vetter e di Carol Ann, una coppia molto religiosa, cattolica, praticante, che ha già una figlia, Catherine, un anno e mezzo prima. I coniugi hanno avuto anche un maschio che hanno chiamato come il padre, David Joseph, ma dopo la sua nascita hanno scoperto che il neonato aveva la SCID, una malattia genetica di cui i genitori sono portatori inconsapevoli, che colpisce un bambino su 100.000, che impedisce di produrre i globuli bianchi, che sono quelli necessari a difendersi contro le infezioni. E a poco le infezioni si susseguono fino a quando il fisico del bambino soccombe sotto l'attacco di ogni genere di malattia. La morte in genere sopraggiunge a pochi mesi dalla nascita. E a quel tempo l'unico tentativo di contrastare una malattia è il trapianto di midollo. Catherine è compatibile col fratello, ma prima che l'operazione possa avere luogo il bambino muore. Per i genitori ovviamente il dolore è terribile, ma il bisogno di avere una famiglia per i Vetter è più forte anche di un grande dolore. Nelle nostre speranze, per la nostra visione del futuro, i bambini erano essenziali. Volevamo dei bambini subito e ne volevamo tanti quanto il Signore ce ne avrebbe mandati. Questa volta i Vetter si consultano prima coi medici, che non hanno notizie molto rassicuranti. L'immunodeficienza combinata grave è una malattia ereditaria di cui loro sono portatori. Non colpisce le donne, ecco perché Catherine è immune, ma con i maschi è un'altra storia. La possibilità che il bambino nasca malato è del 50%, una percentuale altissima, una specie di roulette russa con la genetica, solo che in questo caso l'esito non uccide chi decide di giocare con il proprio DNA, ma è un bambino innocente che non ha deciso lui di premere il grilletto. Alla domanda dei signori Vetter, alla domanda diretta, l'immunologo Jack Montgomery risponde in maniera chiara e inequivocabile. Carol Ann, the mother, la madre, Carol Ann, mi chiese faccia a faccia: lei cosa farebbe? E ricordo che ero in difficoltà perché sapevo che erano cattolici praticanti, ma gli dissi comunque che se mia moglie fosse stata incinta di un bambino così, le avrei detto di abortire. Ricordo ancora lo sguardo che mi rivolse e il silenzio mortale. Siamo di fronte a uno dei casi in cui la fede è più forte della scienza. I Vetter, desiderosi di ingrandire la famiglia, decidono di tentare una nuova gravidanza. Hanno la speranza che Dio li aiuti. Il 21 settembre del 71 all'ospedale dei bambini di Houston in Texas nasce, con un parto cesareo, David Philip Vetter. 20 secondi dopo il neonato viene infilato in un isolatore sterile, una bolla di plastica dove è stata messa una culla. Prima di chiuderlo i genitori lo fanno battezzare con acqua benedetta sterile. E la decisione di metterlo nella bolla è preventiva per il momento. I medici non sanno se il bambino è colpito o no dalla malattia. Dopo qualche giorno i signori Vetter vengono chiamati per conoscere l'esito delle analisi. Ricevemmo una telefonata una settimana circa dopo la nascita di David per convocarci in ospedale. In macchina eravamo ottimisti, pieni di speranza. Quando ci sedemmo nello studio del dottor Montgomery, insieme alla dottoressa South, I medici ci dissero che David, purtroppo, aveva la SCID. Ne fummo devastati. E per rivetter la notizia è un colpo terribile. I dottori hanno già una strategia per affrontare la situazione, visto che il bambino si trova al sicuro nella bolla di plastica e bisogna solo lasciarlo lì ancora per qualche mese per farlo crescere ancora, per poi sottoporlo al trapianto di midollo con Catherine, la sorella immune. Insomma, si profila un periodo faticoso, ma per rivetter la speranza è quella di poter vedere guarire il loro bambino, e la speranza per ora è ancora una strada praticabile. Il falco e il gabbiano. All'ospedale di Houston sono tre i medici che si stanno prendendo cura del piccolo David Vetter e il responsabile dell'intera operazione, il dottor Raphael Wilson. Poi c'è l'immunologo che si chiama Jack Montgomery e la dottoressa Mary Ann South, anche lei immunologa. Per questi tre dottori la bolla dove si trova il neonato si trasforma per forza di cose in una specie di grande laboratorio dove il paziente è anche una fonte di informazioni sulla malattia, perché il progresso passa anche da decisioni di questo genere. Finalmente c'era la possibilità di lavorare con qualcosa di reale. Potevamo osservare la progressione di questa malattia in assenza di infezioni, per la prima volta nella storia. Ma quindi, se per i medici la situazione è, non voglio dire esaltante, ma comunque produttiva di informazioni, lo stato d'animo di Carol Ann Vetter, la madre di David, è molto diverso. All'inizio credevo che se fossi riuscita a mantenermi distante da lui, avrei potuto resistere meglio se fosse successo qualcosa di irreparabile. Per questo esitavo ad avvicinarmi alla bolla e a toccarlo. Ma quando successe la prima volta, mi conquistò una volta per tutte. E quando Carol Ann parla di toccare, dobbiamo intenderci, perché l'unico modo per avvicinare David è attraverso degli oblò ai quali sono attaccati dei lunghi e spessi guanti neri che Carol deve infilare per poter accarezzare o semplicemente cullare il suo bambino. E non solo, tutto quello che viene dato a David, dal cibo ai vestiti, dai pannolini ai peluche, deve prima essere sottoposto a un processo di disinfezione e poi immesso nella bolla di plastica. La stessa aria che viene immessa viene prima sterilizzata con delle macchine che però per forza di cose producono molto rumore. Insomma, per tutta la sua vita David dovrà vivere in questa condizione. E tutto questo significa qualcosa di terribile. A differenza degli altri neonati, che già dalle prime ore di vita possono sentire il calore del corpo della madre, possono percepire gli odori, le sensazioni tattili, tutto quello che in qualche modo ci rende umani, bene, David vive invece in una situazione asettica, priva di ogni calore umano. Nell'ospedale dei bambini di Houston, intanto i medici hanno fiducia, stanno aspettando di poter procedere col trapianto di midollo, il midollo della sorella Catherine, ma alla fine di tutte le analisi si scopre che lei è incompatibile, che il trapianto è impossibile. Per i dottori, per l'immunologo Montgomery è una sorpresa triste, terribile, e forse a questo punto il team si rende conto di avere sottovalutato il fatto che la compatibilità tra fratelli non è automatica, non è scontata. C'era la tacita convinzione che David sarebbe stato compatibile con Catherine, che avremmo fatto il trapianto, che avrebbe funzionato, che tutto sarebbe andato a posto e che saremmo stati tutti felici e forse saremmo diventati anche famosi. E di colpo per David la vita nella sua bolla di plastica, quella vita che doveva essere una condizione momentanea di attesa, si trasforma in una situazione stabile. La capsula di protezione per un neonato diventa la cella permanente nella quale lui dovrà crescere. Non sapevo se questa situazione avrebbe potuto reggere una settimana, figuriamoci per un anno o più. Nel mio incubo peggiore, ogni giorno mi aspettavo di arrivare in ospedale e scoprire che nella notte tutta l'impalcatura era crollata. E la verità è che i medici si rendono improvvisamente conto di essere stati troppo ottimisti. Forse sono stati contaminati dall'entusiasmo di un'epoca piena di conquiste in campo medico. Pensate che solo 4 anni prima Christian Barnard aveva trapiantato il primo cuore su un essere umano. Insomma, c'era dell'euforia, della fiducia, e quindi lo staff del dottor Wilson aveva dato per scontate troppe cose. Adesso si trovano tutti a fare i conti con un bambino destinato a crescere in un isolatore fino a quando qualcuno nel mondo non trovi la cura per la sua malattia. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una storia particolare, dura, dura, soprattutto per un genitore, sia se sta parlando sia se sta ascoltando. È la storia di David Vetter, conosciuto come il bambino nella bolla, così lo avevano soprannominato i giornali dell'epoca. Nato agli inizi degli anni 70 con una terribile malattia genetica, l'immunodeficienza combinata grave, e appena partorito è stato messo in un isolatore sterile, una specie di grande bolla di plastica, dove ha vissuto per i 12 anni della sua vita. E questa non avrebbe dovuto essere una condizione permanente, perché l'idea era che David avrebbe dovuto sottoporsi a un trapianto di midollo, ma la speranza era svanita quando si scopre che la sorella non era compatibile con lui. Insomma, serve un'altra soluzione. E all'ospedale di Houston, nel Texas, tutti si mettono a lavorare per trovare una cura per il bambino. Questo però significa dover sottoporre David a continue analisi, a controlli, e questi controlli finiscono per trasformarlo in un ostaggio della scienza, e si chiama accanimento diagnostico. Il sospetto che lui venga usato come una cavia umana è un sospetto che comincia a farsi strada, è un sospetto che il dottor Wilson, che ha in cura David, respinge. He was not a guinea pig in the sense that non era una cavia, nel senso che non lo abbiamo fatto nascere con l'intento di avere un soggetto pronto per le nostre sperimentazioni. Ma è vero che dovemmo continuare le nostre ricerche, visto che stavamo lavorando in un'area entro la quale non esistevano precedenti esperienze. Nonostante le proteste del dottor Wilson nel 75, quando David ha già 4 anni, ricordiamo, 4 anni vissuti tutti dentro alla bolla, viene istituita una specie di commissione scientifica per capire le implicazioni non solo mediche ma anche etiche della situazione del bambino. E vi faccio sentire l'intervento di uno dei partecipanti che spiega bene il pensiero di molti medici dell'epoca. Credo di condividere con molte altre persone in quest'aula una grande ammirazione per il grande livello tecnologico che è stato raggiunto finora per David. Ma sono anche molto preoccupato, come penso molti di voi, perché non credo che la qualità di vita che è stata ottenuta per David possa auspicabilmente restare tale ancora a lungo. E sì, infatti iniziava a non esserlo più, se avete dei bambini. Immaginate come sono, 3-4 anni, il bisogno che hanno di correre, di saltare, di giocare, di scoprire la vita, di sentire il profumo dei fiori, di osservare, non so, un insetto, di costruire un castello di sabbia, insomma, di fare tutte le cose che fanno i bambini, compreso addormentarsi tra le braccia dei genitori. Tutte cose che David non può fare, anzi, neanche sa che esistono, a parte i piccoli giochi introdotti nella sua bolla, qualche coniglietto di peluche sterilizzato. Lui non ha altri strumenti per poter essere pienamente un bambino. A un certo punto gli viene data una televisione, e questo naturalmente aumenta la sua frustrazione, perché vede che la vita è ben diversa da quello che vive lui all'interno della sua bolla. Insomma, vede tutto quello che lui non può fare. David never questioned. I primi anni David non si faceva mai domande sul perché vivesse in una bolla. Per lui era normale, come era normale che quando sua madre lo toccava dovesse usare un paio di guanti neri. All'inizio i bisogni dei bambini sono molto basilari, e anche quelli di David erano molto semplici. E l'insofferenza di David arriva a un momento drammatico. Lui ha 4 anni, durante uno dei suoi controlli un'infermiera per caso dimentica uno di quegli aghi a farfalla che si usano per le analisi. David lo trova e in un tentativo estremo di liberarsi comincia a riempire di buchi la plastica della sua bolla, sperando di distruggerla e di poter fuggire da lì. Di fronte al pericolo, il dottor Wilson è costretto a spiegare a David cosa vuol dire avere la sua malattia. I said, "Do you know what will happen if you make a hole in the ice layer?" And he said, "No." Gli dissi: "Sai cosa succede se fai dei buchi nell'isolatore?" Lui disse: "No." E io: "Dei piccoli insetti, dei piccoli piccoli insetti che non puoi neanche vedere, ma sono molto cattivi. Ti fanno stare male. Se entrano dentro, inizierai a stare male dappertutto. Ora capisci perché è importante che tu non faccia buchi nell'isolatore?" Sì, aveva capito. Questa è stata la prima volta che abbiamo avuto una conversazione seria sulle ragioni del suo isolamento. Capire però non significa che tutto torna a filare liscio. La frustrazione si fa sentire, deve essere veramente terribile. La psicologa che segue David capisce che il comportamento del bambino comincia a cambiare. Credo che iniziò a diventare più introverso, più calmo. Quando andavo a trovarlo, aveva sempre meno da dire. Spesso si sedeva in ginocchio e si dondolava avanti e indietro. Sit on his knees and rock back and forth. E la verità è che la situazione di David comincia a sfuggire di mano anche ai suoi dottori, che non sanno cosa fare di questo bambino. Hanno in mano il destino di questo bambino, ma non il suo futuro. Niente sembra offrire una vera speranza, e la maggior parte delle procedure sembravano essere troppo pericolose. Mentre invece, fin tanto che l'isolatore continuava a funzionare, potevamo prendere tempo. We didn't have to do anything. E così gli anni passano, il team del dottor Raphael Wilson comincia a abituarsi a avere questo bambino in una stanza dell'ospedale, e col tempo gli viene costruita anche una specie di succursale di questa bolla e la mettono nella casa dei veteran. Ogni tanto David viene trasferito dai genitori per poter trascorrere del tempo con la sorella, però di fatto il tipo di vita che conduce è sempre lo stesso. L'isolamento è una condizione penosa, terribile. E lo dice anche il cappellano dell'ospedale di Houston che segue la vicenda. Credo che nella mente del dottor Wilson la bolla divenne una specie di cella monastica dove il bambino stava abbastanza bene e abbastanza tranquillo, dove il bambino non aveva bisogno di contatto fisico, tattile, con un altro essere umano, e dove non avrebbe avuto, ad un certo punto, pulsioni sessuali. Il mondo dell'informazione ci ha regalato delle immagini di David. Siamo alla fine degli anni 70, la televisione ovunque, la televisione porta nelle case degli americani i servizi televisivi girati sulla sua storia. Viene omesso il suo cognome per non fare troppa pubblicità alla famiglia, per il resto David è un bambino osservato da tutti, mentre lui non può osservare altro che quei pochi metri quadri di bolla che lo circondano. Della sua storia comincia a interessarsi anche la NASA, l'agenzia spaziale americana. Alcuni dei suoi ingegneri realizzano una speciale tuta che gli permette di isolarlo a sufficienza, anche di muoversi fuori dall'ospedale. David ha circa 6 anni quando la indossa per la prima volta e può camminare per strada e vedere il mondo esterno. Ma l'ansia, la paura di essere attaccato mortalmente dai germi, le paure che gli sono state inculcate dai dottori sono più forti della felicità di passeggiare per i vialetti attorno alla casa dei genitori. Dopo 6 passeggiate con la tuta, David smette di indossarla, torna nella sua bolla, è rassegnato al suo destino. Un professore specializzato in temi etici, diciamo, James Jones, ha studiato il caso di David ed è arrivato a delle conclusioni piuttosto angoscianti. Here is a child Abbiamo un bambino che nel tempo ha subito così tante punture che i suoi piedini iniziarono a somigliare a dei puntaspilli. David diventò un oggetto di ricerca oltre che un paziente, e questi due ruoli finirono per confondersi tra loro. Ma alla fine anche i medici che lo studiano nella impossibilità di poter trovare una soluzione cominciano a staccarsi da lui e dalla sua malattia. La prima che lascia il team è la dottoressa South. A un certo punto tutti coloro che erano coinvolti nella malattia di David si sentivano intrappolati nella situazione, perché comprendevamo che era un problema che non potevamo semplicemente dimenticare allontanandoci. E poi ce ne va anche l'immunologo Montgomery e poi inaspettatamente anche l'ideatore del sistema della bolla, il dottor Raphael Wilson, lascia Houston dopo aver avuto un attacco di cuore. Per David è una catastrofe. Le tre persone responsabili della sua sopravvivenza e della sua eventuale cura lasciano il campo. Questo per lui significa che il suo destino è di dover restare per sempre in quella bolla. Così si chiude ancora di più in se stesso e a volte ha dei veri e propri scatti d'ira. Al posto del team precedente arriva il dottor Shearer, che si rende subito conto che questa storia non può andare avanti per molto. L'intera operazione è un fallimento annunciato. Mantenere David è costato più di $1,000,000 e non c'è stato nessun risultato. Anzi, gli psichiatri lo informano che lo stato mentale di David si sta deteriorando sempre più e sta crescendo la frustrazione per la sua condizione. Quando il bambino ha 9 anni, il dottor Shearer decide di rimandare a casa David in maniera permanente. Così la bolla viene trasferita a casa Vetter. All'inizio le cose sembrano migliorare, ma ci sono dei momenti in cui il bambino soffre ancora di più. Credo che per noi il momento più duro fosse l'estate. David trascorreva molto tempo guardando fuori dalla finestra. Vedeva i ragazzini andare in bici, li vedeva rotolarsi sull'erba. Mi rendevo conto della sua tristezza e capivo che dovevamo presto trovare una soluzione. Poi nel 1983 arrivano delle notizie apparentemente confortanti. È stato trovato un metodo per trapiantare il midollo anche in mancanza di perfette compatibilità, e questo apre le porte al trapianto di David col midollo della sorella Catherine, alla speranza di una vita normale. Lui ormai ha 12 anni, un bel ragazzo alto per la sua età, con capelli scuri, 2 occhi neri grandi e tristi. La notizia gli dà una nuova speranza. Nell'ottobre dell'83 ha luogo la tanto desiderata operazione. All'inizio tutto sembra andare bene. Dopo qualche settimana però David comincia a star male, ha la febbre alta, vomita sangue e il suo corpo non sembra rigettare il midollo, però cominciano a svilupparsi dei piccoli tumori maligni che lo stanno portando rapidamente alla morte. Il dottor Shearer decide di ricoverare David in una camera sterile dell'ospedale, ma fuori dalla bolla. È il segno che non c'è più nessuna speranza. Per la prima volta nella sua vita, però anche per l'ultima, cioè al termine della sua vita, David è fuori dall'isolatore che l'ha accompagnato per tutta la sua esistenza, ma non ha più la forza per essere felice. Nel pomeriggio del 22 febbraio dell'84 David fa l'occhiolino al dottor Shearer e poi entra in coma. Ai suoi genitori viene finalmente permesso di entrare nella stanza, la madre lo abbraccia, può toccare la sua pelle per la prima e ultima volta. C'era un medico in piedi al quale chiesi se potevo togliermi i guanti e toccare David. E lui fece segno di sì. Così andai verso di lui, mi tolsi il guanto e gli strofinai il dorso della mano per la prima e ultima volta. David muore alle 8 di sera, a 12 anni e mezzo. 12 anni e mezzo trascorsi interamente tra le pareti di plastica della sua bolla. E dall'autopsia si scoprì che il midollo di Catherine, della sorella, conteneva un virus dormiente che non era stato individuato dalle analisi, che si era rivelato fatale per il fisico di David. Aveva innescato i tumori che l'avevano portato alla morte. Sulla sua tomba c'è scritto: non ha mai toccato il mondo, ma il mondo è stato toccato da lui. E oggi, grazie a David Vetter, sono molti bambini con la SCID che vengono curati e che guariscono. Il suo sacrificio quantomeno non è stato vano, e da allora nessun bambino è mai più stato tenuto in una bolla. E ci sono storie che toccano veramente il cuore, l'anima, soprattutto, insomma, se sei un genitore. La storia di David è una storia terribile. I suoi voli sono stati solo voli fatti con la mente e col cuore, e sono stati dei voli che sono serviti alla scienza. E la cavia umana David Vetter è stata chiusa e costretta a vivere per 12 anni e mezzo, per tutti i 12 anni e mezzo della sua vita, in questa bolla che ha dato una speranza a altri bambini. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco il gabbiano chiocciola radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite a trovarmi, a trovarci nei miei, nei nostri social. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Francesca Filiasi, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.